Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Avevo preso 30 allo scritto. Mi sarei presentato all'orale. Avrei pianto, avrei implorato, avrei fatto qualsiasi cosa, ma il 18 l'avrei portato a casa. Di tempo ne avevo perso fin troppo per permettermi di fare lo schizzinoso. Sono Fabrizio, ho 48 anni, milanese, sposato con due figli, faccio il direttore commerciale per una multinazionale tedesca. È che io da sempre provo una grandissima invidia per le persone che sanno fare magari una cosa sola, però la sanno fare benissimo. Poi è ovvio che sanno fare anche altre cose, tutti sappiamo cucinare due uova al tegamino o tirare un calcio a una palla, anche se male, e buttarla dall'altra parte del campo. Però ci sono persone che proprio semplicemente si dedicano a fare una cosa, non sprecano energie per altro, non cercano di interessarsi a cose che non le riguardano. Sanno fare una cosa e la sanno fare benissimo. Ecco, oggi siamo qui. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui. Ogni giorno raccontiamo delle storie, ogni giorno una storia diversa, di una persona diversa, che racconta qualcosa, che racconti qualcosa di lui. Sono le 16:08, da una Milano sempre piena di sole, anche in un dicembre ormai inoltrato. Oggi è la storia di Fabrizio, che sentirete a breve. Parla di un episodio molto semplice che, devo dire, a quanto pare è capitato a diverse persone, visto che sono arrivati dei messaggi sul profilo Facebook del programma, che Voi siete qui Radio 24, che parlano di cose simili, di storie simili a quella di Fabrizio. Giorgia, ad esempio, settembre, ultimo esame del primo anno di università, filosofia del diritto. Non ero molto preparata, un po' perché tornavo dalle vacanze e un po' perché la filosofia è sempre presa sotto gamba dagli studenti di giurisprudenza. Chiedo a un amico di farmi una domanda alla quale ovviamente non so rispondere. Controllo al volo la risposta sul libro. Dopo poco l'assistente mi chiama e mi fa un'unica domanda, quella che avevo appena letto sul libro. 28 regalato per me e birra per il mio amico. 349-238-6666 oppure Voi siete qui Radio 24 al profilo Facebook o Voi siete qui R24 al profilo Twitter. Il mio profilo Twitter è semplicemente Matteo Caccia. Continuate a mandare storie, anche al di là delle storie di viaggio. Sapete che abbiamo di fatto chiesto di inviarci storie che riguardassero dei viaggi che avevate intrapreso e che in qualche modo avevano cambiato la vostra vita. Per tutte le due settimane natalizie noi racconteremo queste storie, ma noi per tutte le due settimane natalizie saremo in onda e continueremo a chiedervi di raccontare storie che riguardino la vostra vita, che riguardino un piccolo episodio, che abbiano un inizio, uno sviluppo e una fine. Voi siete qui @radio24.it per inviare le vostre storie. Per scaricare invece il podcast di questo programma andate sul sito di Radio 24 oppure andate su iTunes o su tutti gli smartphone, ci sono le app gratuite, in particolar modo quella di Radio 24, non vi serve nemmeno più scaricare nulla. 349-238-6666. Tommaso, a caso mi studio i mufloni per l'esame di Stato, ma me li chiede, l'ho steso. L'esame di Stato di che cosa esattamente, Tommaso? O ho letto male io? No, mufloni. Muffloni sono degli animali. Sarà un medico, sarà un veterinario. Esiste l'esame di Stato per veterinario? Immagino di sì. Margherita, esiste un esame di Stato per fare veterinario? Immagino di sì. È una categoria e quindi... Eccola qua, Margherita se n'era uscita dallo studio e adesso immediatamente si fionda in regia a cercare se c'è un esame di Stato per il veterinario, che immagino di sì. Soprattutto, che cosa sono i muffloni? Muffloni sono quelle cose... Che è giusto. Tiziano Bonini mi fa delle corna sulla testa. Sono tipo dei caproni i muffloni, giusto? 349-238-6666, giusto il tempo di digitare muffloni su Google e vedere un'immagine che in tempo... Eccolo qua, attenzione. Ovis musimon, il mufflone è un mammifero artiodattilo della famiglia dei bovidi. 349-238-6666, non si parla di muffloni oggi, si parla di quella cosa che sapete fare benissimo, è una sola, ma siete i migliori in assoluto. Questa è la storia di Fabrizio. Nella vita sono rari i colpi di fortuna. Nel corso di un'intera esistenza ne può capitare uno. Nella maggior parte dei casi nessuno. C'è chi vince la lotteria, c'è chi ha la fortuna di incontrare l'anima gemella, quella vera. A me è capitato un episodio fortunato all'università. Quindi, essendomi già sposato con l'anima gemella, posso mettere definitivamente una pietra sopra la possibilità di vincere alla lotteria. I miei colpi di fortuna io me li sono già giocati. È febbraio, è il 1995, siamo al Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo. Ero talmente indietro con gli studi che il mio corso di laurea non esisteva più. Si era trasformato in quella che oggi viene chiamata ingegneria gestionale. La vecchia nomenclatura veniva artificialmente tenuta in vita attaccata a una flebo dai pochi fuori corso, come me. Avevo 29 anni, mi mancavano 3 esami per laurearmi e non ce la facevo veramente più. I miei coetanei, figli dei favolosi anni 80, erano già usciti dall'università e già lavoravano da 4-5 anni, guadagnando cifre che avrebbero fatto morire d'invidia i neolaureati di oggi. Non esistevano precari. Le imprese venivano a cercarti ancora prima di discutere la tesi e dopo poco tempo, se dimostravi di essere in gamba, il tuo stipendio iniziava a salire esponenzialmente. Gli altri avevano comunque un posto fisso e un discreto salario assicurati. Io da grande avrei voluto fare forse qualche cosa di più creativo, anche se ero uno di quei ragazzi che sapeva fare un po' tutto, ma non lo entusiasmava niente, no? E quindi, da una cosiddetta buona famiglia, ho iniziato a vedere se potevo fare il medico o l'ingegnere, al massimo il prete, perché queste erano le opportunità che mi davano i miei genitori. Due degli esami che mi mancavano erano relativamente semplici, ma il terzo, elettrotecnica, era un fondamentale che mi trascinavo dietro dal biennio e che per scarso interesse e mancanza di voglia non mi ero mai deciso a prendere in mano. Elettrotecnica era un mattone tremendo. Come tutti i nostri esami, era diviso in una parte scritta di esercizi che precludeva l'accesso a quell'orale. 800 pagine di formule incomprensibili sul funzionamento delle macchine elettroniche. Non avevo frequentato le lezioni e mi vergognavo, gli altri candidati avevano quasi 10 anni meno di me. Sembravo loro zio. Quindi mi comprai i libri e cominciai la maestosa impresa. Iniziai dagli esercizi. La difficile e noiosa teoria sulle macchine elettriche l'avrei affrontata più tardi. E dopo una settimana, anche se non avevo capito molto bene di cosa si stesse parlando, mi accorsi di avere un certo feeling con i sistemi trifase. Insomma, una volta capito il meccanismo, non era poi così difficile. Una mattina, passando in facoltà, mi accorsi che ci sarebbe stato un appello 2 giorni dopo. E non so perché mi iscrissi. Non avevo nessuna speranza di passarlo. Il libro di teoria era ancora sulla mia scrivania all'interno della busta di plastica della mitica libreria Club. Volevo forse vedere qual era il mio livello di preparazione sugli esercizi per sapere cosa avrei dovuto aspettarmi all'appello di 3 mesi dopo, quando avrei affrontato veramente l'esame. Andai allo scritto estremamente rilassato, tanto quella era una finta, una sorta di prova generale. Scoprii che il test era diviso in 4-5 esercizi e da un'ultima domanda di teoria, che sarebbe stata parte integrante del successivo esame orale. Eseguì gli esercizi in qualche maniera, ignorai completamente la domanda di teoria, non capii neppure l'argomento trattato. Last night all my attention squinting westward at the sunset with a map and a compass when a man reached up said something there. Against the sky, a point of light. Two invisible to give itself to the naked eye. On the shore, people yelling. In their eyes, a great reflection. In the grid aware. Their position, unconcerned with intuition, there could never be now sympathy. From that wilderness, so let it be arrested. Magellan, 9x6 or 8x7, poster sentinel at the border of what you attend, what you ignore. I saw my frame in a pool of light, all drowned in doubt and shame, and I knew that I had lost my sight. Il giorno prima dell'orale passai in facoltà per vedere com'era andata. Non ero preparato a quello che era riportato in bacheca. Accanto al mio nome, a mezza pagina, vidi un numero che non avevo mai visto in quasi 10 anni di disonorata carriera. 30. Ci vedevo ancora benissimo, ma incredulo puntai l'indice destro sotto il voto, seguendo con il sinistro la linea che portava al mio nome. Ero proprio io. Avevo preso 30. Questo cambiava tutto, ovviamente. Mi sarei presentato all'esame. Avrei pianto, avrei implorato, avrei fatto qualsiasi cosa, ma il 18 l'avrei portato a casa. Ero troppo vecchio, troppo stanco. Di tempo ne avevo perso fin troppo per permettermi di fare lo schizzinoso. Il giorno dopo mi presentai all'esame ed ero agitatissimo. Conscio di non sapere nulla, cercavo di attingere disperatamente spezzoni di informazioni dai miei colleghi, che erano lì con me a sostenere la prova orale e che si trovavano anch'essi in una situazione emotiva troppo alterata per dare retta a quel nonno che chiaramente non sapeva di che cosa stesse parlando. Rassegnato, mi misi in un angolo, stringendo tra le mani il mio intonso tomo di elettrotecnica. Dietro tutta questa storia c'è un dramma di uno che ha sbagliato l'università e che tra l'altro continua nel suo errore portandolo a termine, mettendoci 10 anni, 10 anni buttati in buona sostanza, 10 anni molto brutti per me. Vivendo vicino al Politecnico, quando dovevo passarci cercavo di fare il giro largo. Era un esame del biennio. La lista dei candidati era ancora lunghissima. Sì, col passare degli anni la selezione naturale del Politecnico avrebbe falcidiato le fila e agli esami si sarebbero presentati in 5 o 6. Quel giorno eravamo più di 40. Io ero numero 28. Probabilmente mi avrebbero chiamato a fine mattinata. Presi una decisione. Aspettando il mio turno avrei studiato un argomento semplice che mi sarebbe servito come ultimo appiglio prima di essere buttato fuori. Iniziai a sfogliare il libro, ma i capitoli che leggevo erano veramente lunghissimi, incomprensibili. A un certo punto la mia attenzione venne attirata da un capitolo corto rispetto agli altri, solo 8 pagine. Transitorio di carica dei condensatori. Cominciai a leggere e rileggere quelle 8 pagine, chiedendo delucidazioni ai miei scocciatissimi colleghi per i passaggi più difficili, finché il mio nome non risuonò in tutta l'aula. Interrogavano in 2, il docente e l'assistente. Mi chiamò quest'ultimo, un giovane, avrà avuto un paio d'anni più di me. Mi alzai come un automa ed andai alla lavagna. Il cuore mi scoppiava nel petto. L'assistente cominciò a studiare il mio compito. Lei ha fatto un esame perfetto. Come mai non ha risposto alla domanda di teoria? Mi disse. Mancanza di tempo, balbettai. Peccato. Va bene, vediamo. Mi voltai verso la lavagna con il gesso nella destra ed il palmo della sinistra appoggiato all'ardesia, pronto a cominciare l'invereconda pantomima del... guardi, non mi ricordo, sono un po' emozionato. Ho un vuoto di memoria. Quando lui mi disse... Mi parli del transitorio di carica dei condensatori. Non capii immediatamente che mi aveva appena chiesto le uniche 8 pagine su 800 che avevo appena studiato. Staccai la sinistra dalla lavagna, lasciando su di essa l'impronta perfetta della mano sudata. Mi voltai incredulo per guardarlo in faccia, quasi per sincerarmi che avessi capito bene, ma di lui ricordo solo una figura sfocata. Nitido, dietro di lui, rivedo ancora il labiale del mio unico spettatore che, portandosi le mani alle tempie e piegando il capo all'indietro, esclamava sottovoce: «Che culo!». Rileggevo quelle 8 pagine ininterrottamente da circa 4 ore. Le sapevo praticamente a memoria. Il gesso cominciò a tracciare formule sulla lavagna alla velocità della luce. L'assistente era visibilmente impressionato. Mi interruppo più di una volta per farmi delle domande correlate, ma ormai ero gasatissimo. Rispondevo a tutto. Probabilmente dicevo fregnacce, ma le dicevo benissimo, in maniera professionale. Presi 29. Il non avere risposto alla domanda teorica del compito mi costò un punto. Quell'esame mi ridiede fiducia ed energia. passai gli ultimi due esami facilmente e a dicembre dello stesso anno discussi la tesi di laurea. Sono un ingegnere che non conosce l'elettrotecnica, ma del resto l'ingegnere nella mia vita non l'ho mai fatto. I have wept until I slept into the lap of the lady that I love. Though she begged and she cajoled, I couldn't tell her what I was thinking of. I didn't choose, no, I was chosen by a life that must be lived in passing. Though she changed so much for me, changing this is the one thing I cannot do. Darling, I'm leaving. The distance keeps calling me on. Darling, come morning, I'll be gone. There's a sadness in your smiles now and an edge of desperation in your voice. We have all this independence, but it still feels like we never had a choice. Darling, I'm leaving. È nel suo ufficio, Fabrizio, nella fotografia che ci ha mandato, come ci mandano tutti gli autori delle storie e che vi raccontiamo quotidianamente. La trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, chiaramente. È nel suo ufficio e tiene gli occhiali in bocca dalla parte della stecchina, insomma, come se stesse pensando a qualcosa. In realtà sta guardando dritto l'obiettivo, quindi sa che lo stanno fotografando. Camicina azzurra, maglioncino di lana, girocollo grigio, e alle sue spalle una finestra nell'ufficio, e da una parte la fotografia di un tizio con una chitarra, è appoggiato sul davanzale un inspiegabile omino Michelin. Pronto, Fabrizio? Uella, ciao Matteo. Sei nel tuo ufficio in questo momento? No, sono fermo a un autogrill. Ok, perfetto, sei in viaggio. Quell'omino Michelin alle tue spalle nel tuo ufficio, da dove arriva? Quell'omino Michelin alle mie spalle è un salvadanaio, in realtà. Ci metto dentro le monete per prendermi caffè alla pausa caffè. Alla macchinetta. Ok, perché alla non avete la chiavetta in ufficio? Adesso non serve più perché ci siamo comperati la macchinetta della Nespresso. Ah, ok, perfetto. Quindi va bene, non serve più. Ma anche chi se ne frega delle vostre pause caffè, in fondo, Fabrizio. Veniamo a noi. Raccontami innanzitutto, partiamo da qua e poi torniamo indietro. Adesso esattamente che lavoro fai? Allora, io adesso sono direttore commerciale per una multinazionale tedesca che fa semilavorati termoplastici, cioè in buona sostanza lastre e barre di plastiche ad uso industriale. Che goduria, quindi fate, che so io, lastre e barre di plastica. Dimmi dove vanno a finire le vostre lastre di plastica. Dappertutto. Tipo, ho davanti un computer, c'è uno schermo di un computer, ci sono delle vostre lastre di plastica in questo schermo? Tipo i bordi dello schermo, magari. I bordi dello schermo sono fatti probabilmente in ABS, termoformato. Certo. È dappertutto la plastica. I cruscotti delle macchine. Cruscotti delle macchine, anche quello è ABS, termoformato, con su delle pellicole di... Dopo vado a cercare bene ABS, termoformato. E tu sei direttore commerciale, quindi ti occupi di vendita. Sì. Sei sempre in automobile. Sono sempre in automobile, anche perché quando non vado in ufficio, che è a soltanto 60 km da casa mia, e quindi per andare e tornare me ne faccio 120 al giorno, sono da qualche altra parte. Ed è lì che ci becchi, quindi in automobile ti ascolti la 24, esatto, quindi immagino. Esatto, mi diverto molto, le vostre storie mi fanno sempre divertire, mi intrattengono molto. Fabrizio, ma che cos'è sto transitorio di carica dei condensatori? Lo sapessi. Dai, era l'unica roba che sapevi. 8 paia. Cioè, per uno che non ne sa nulla, te lo sarai dimenticato adesso. Me lo sono dimenticato. Sono quelle cose che impari a memoria in un momento di panico, e dopo quasi 20 anni uno se l'è dimenticato. Intanto c'è un ascoltatore che scrive, di quelli che la so, la ditta è di sicuro la Evonik. No, benissimo. Si chiama, mi spiace. si chiama wrestling, se posso fare. Ma se tanto siamo qui, guarda, figurati. C'entra comunque Confindustria, fa la parte di Confindustria. No, perché niente, è in Germania. No, ma noi siamo una SRL italiana. Apparteniamo alla al giro nostro. Sì, esatto. Senti, invece, dicevi che tu hai completamente sbagliato a fare ingegneria. E tra l'altro, insomma, tu l'hai raccontato in maniera leggera di un episodio anche divertente, però poi lo dici che li hai vissuti male quei 10 anni. Malissimo. Cosa hai fatto nel frattempo in quei 10 anni? Ma ho fatto tante cose. Tra l'altro ho vissuto più di un anno a Londra per evitare il servizio militare, e questa è un'altra storia. Forse un giorno se ne avrò voglia, scriverò anche questa. Cosa facevi a Londra? Ti nascondevi sostanzialmente, non dormivi mai 2 notti nello stesso letto, avevi alle spalle la polizia militare. No, la polizia militare lo sapevo, io ogni volta che tornavo in Italia dovevo presentarmi dai carabinieri, firmare, eccetera. Era una cosa completamente legale, diciamo che le maglie dell'esercito nel momento in cui avrei dovuto andare sotto le armi si erano un po' allargate, quindi c'erano parecchie persone che facevano, usavano questa escamotage per non fare militare. Senti, ma invece quindi ad oggi, se dovessi guardare indietro, invece che ingegneria cosa faresti? Ma lo sai che non lo so ancora cosa vorrei fare da grande. Direi che il lavoro che mi sono trovato è un lavoro che alla fine mi piace. Perché comunque, e quindi un po' ti è servita, non so, nella forma mentale, non so, sì, ingegneria? Sì, certo. Mi è servita per il semplice motivo che quando entro in un'azienda, come ti ho detto, la plastica va in tutte le industrie, capisco i processi produttivi, e quindi soprattutto quando devo fare una consulenza sul tipo di materia plastica da utilizzare. Il ti ecciti come un pazzo proprio sulla consulenza sulla materia plastica. Tra l'altro c'è un ascoltatore che dice: ehi, io ho una fabbrica di lastre di ABS, immagino che ce ne siano diverse, perché qui c'è proprio fermento sulle lastre di plastica. La concorrenza è spietata, diciamo che l'ABS per noi è una plastica diciamo così non principale. Le nostre plastiche principali sono il polietilene ad altissimo peso molecolare, sono stai dicendo cose, guarda, che potresti parlare per ore e non ti seguirei, anche perché devo chiudere. Sì, Fabrizio, infatti. Io ti ringrazio per la storia e per la chiacchierata, ti lascio in autogrillo dovunque tu debba andare, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille anche a voi. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, grazie. 349-238-6666. Vacanze Abruzzo 1977. Settimana enigmistica. Cruciverba semplice. Lo faccio, poi vado da un amico che mi sfida a un cruciverba della settimana enigmistica. Indovina quale? Figurone, sì, però Franco, così non vale. Cioè, questa è una sorta di truffa. Noi parlavamo di gente che sappia fare una cosa e che la sappia fare molto bene. Niente, nessuno mi ha spiegato che cosa è questo transitorio di carica dei condensatori. Nemmeno in un SMS immagino sia complicato da condensare. A proposito di condensatori, io ringrazio intanto Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni che hanno fatto questo programma. Scaricate il podcast, raccontate storie, voi siete qui @radio24.it. Grazie soprattutto a Fabrizio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Pierpaolo, vivo a Latina, la storia di domani è la mia e parla di rinascita. Questa è la mia storia e io sono qui.